TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Anche a Trieste questa mattina, così come nel resto dell'Italia, c'è stato un presidio in Piazza della Borsa organizzato dalla comunità iraniana locale per l'autodeterminazione del popolo iraniano, per esprimere solidarietà con tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando contro il governo di Teheran. E questa mattina a Pordenone, nella chiesa di San Francesco, si sono svolti i funerali di Paul Nan Ampong, il quindicenne morto per un'aritmia durante una partita di calcetto con i compagni in via Pontini. Una folla commossa di amici e parenti ha partecipato alle esequie. Continua la nostra mini inchiesta sulle discariche abusive e i luoghi abbandonati nella nostra regione. Siamo andati a Premaiacco e a Remanzacco. A Tarvisio, sulla pista di Prampero, si disputano le gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Questa mattina era in programma la discesa libera, successo azzurro per la De Lago alla sua prima vittoria in carriera. Dietro all'aspetto agonistico c'è anche il lavoro dei tanti addetti che hanno garantito per la sicurezza delle piste per le atlete in gara. È aperto questa mattina a Pordenone la 36esima edizione della mostra mercato del disco usato e da collezione in fiera, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, in particolare del vinile, in programma anche domani. Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Dario Ronzoni a condurre insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 17 gennaio. Anche a Trieste questa mattina, così come nel resto dell'Italia, c'è stato un presidio in Piazza della Borsa organizzato dalla comunità iraniana locale per l'autodeterminazione del popolo iraniano, per esprimere proprio la solidarietà con tutti coloro che in questi giorni stanno manifestando contro il governo di Teheran e le repressioni che ci sono state. La testimonianza di un giovane iraniano appena rientrato con grandi difficoltà dal suo paese. Fino a giovedì c'erano le manifestazioni e le proteste, poi fino a giovedì erano abbastanza pacifici, però da giovedì e soprattutto venerdì sera hanno iniziato a sparare la gente e hanno ucciso tutti per strada, cioè sparavano i giovani, i vecchi, picchiavano tutti, non si poteva uscire da casa. E io ho visto certe persone, cioè non sono uscito perché io ovviamente i miei genitori non mi lasciavano uscire, ma dalla finestra ho visto le scene che non avrei preferito non vedere nella mia vita. Conosci persone che sono state uccise? Per fortuna no, ma ci sono due miei amici che sono picchiati male. Hai avuto più contatti con la tua famiglia dopo che sei venuto via? No, niente, zero. Quindi non sai come stanno? Io non so loro come stanno e loro, neanche loro, non sanno se io sono arrivato qua, non sono arrivato, come sto, niente, zero. Oggi che cosa chiedete qui, perché siete qui? Supporto del popolo, supporto del mondo, perché là c'è il popolo che sta morendo per strada e c'è il popolo che non ha più speranza. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Pordenone, nella chiesa di San Francesco, questa mattina si sono svolti i funerali di Paul Nan Ampong, il quindicenne morto per un'aritmia durante una partita di calcetto con i compagni in via Pontinia. Una folla commossa di amici e di parenti ha partecipato alle esequie. Sentiamo. Morire 15 anni su un campo di calcio giocando tra amici, un destino tragico quello di Paul Nan Ampong, scomparso per un malore alla vigilia di Natale, una disgrazia che ha profondamente colpito Pordenone. Lo si è visto oggi al suo funerale nella chiesa cattolica di San Francesco, sopra la bara bianca. I compagni di squadra della SD Torre Calcio hanno lasciato la sua maglietta numero 16 con il suo nome, il ricordo più commosso, quello dell'allenatore. Una cerimonia, secondo il rito evangelico, toccante il momento iniziale con i canti dell'integrata comunità ghanese di Pordenone. In prima fila, familiari del quindicenne, madre, padre, fratello e sorella, che al microfono in chiesa ha definito Paul una stella. Al funerale hanno partecipato anche i compagni del centro giovani di Largo Cervignano e studenti della scuola di Paul, la Mattiussi di Pordenone, che già ieri ha ricordato il ragazzo, coinvolgendo tutti i 1500 iscritti con un lancio di palloncini bianchi. Un minuto di silenzio per tutte le scuole della città è stato chiesto dal sindaco Alessandro Basso. All'inizio si era parlato di uno scontro di gioco come causa della morte di Paul, ma l'autopsia ha accertato che si è trattato di un malore dovuto a un problema al cuore. Per questo la procura sta verificando il certificato medico che Napong doveva avere per svolgere l'attività sportiva con la SD Torre Calcio. Pordenone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata anticipata di un'ora, senza comunicazione, la commemorazione per i deportati del comune di Gorizia, organizzata dalla decima MAS, insieme alla Lega Nazionale e all'Associazione Deportati. L'appuntamento, tradizionale in tutti gli anni, previsto per le 10 di questa mattina, si è svolto quindi alle 9. Nella notte scorsa i gnoti hanno lasciato degli escrementi davanti al Palazzo del Comune, che sono stati subito rimossi dopo la cerimonia. Dopo la cerimonia il gruppo della decima MAS si è spostato a Tarnova della Selva per un'altra commemorazione. Qui nel gennaio del 45 ci fu uno scontro molto duro tra repubblichini e il nono corpus dell'esercito di liberazione jugoslavo. E continua la nostra mini inchiesta sulle discariche abusive e i luoghi abbandonati nella nostra regione. Il nostro viaggio tra discariche abbandonate e capannoni pieni di rifiuti ci porta a Remanzacco. L'ex cascamificio è pieno degli stessi sacchi di materiale plastico stoccati a migliaia dallo stesso imprenditore in un altro sito sequestrato dai carabinieri a Manzano. Deve rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata. Ennesima vicenda davanti alla quale i piccoli comuni si ritrovano inermi. Daniela Briz, sindaca di Remanzacco. Appena c'è stato l'intervento del NOE, noi abbiamo subito fatto l'ordinanza contingibile e urgente che intimava lo sgombero del materiale. Ordinanza appellata. Esatto, abbiamo il nostro avvocato che ci sta seguendo in tutto questo procedimento. Ma è Premariacco uno dei punti più critici di tutta la regione. A Firmano, decenni per cercare di individuare il responsabile dell'inquinamento delle falde in un sito dove si sono succedute discariche e fallimenti dal 1987. Michele De Sabata, sindaco di Premariacco. Se facciamo un paragone fra abitanti e suolo, siamo ben oltre la terra dei fuochi così famosa. Qua hanno seppellito di tutto. L'ignoranza tecnica di come si costruiva una discarica negli anni, parliamo degli anni 80-90, abbinata all'avidità degli imprenditori, che non hanno avuto scrupoli nel metterci dentro qualsiasi cosa. Con soldi della Regione e dello Stato, oltre 3 milioni e mezzo di euro, sarà il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ad occuparsi del ripristino ambientale. Il progetto verrà presentato in conferenza dei servizi. Alessandra Tonelli, RUP dell'Opera. Consiste nella realizzazione di uno strato di copertura impermeabile e di 6 pozzi che si spingeranno alla profondità di 8 metri e serviranno per emungere il percolato esistente, che è stato stimato circa in 10-15 mila metri cubi. Il pompaggio del percolato durerà grosso modo un anno. Previste altre 2 fasi che includono una barriera idraulica e una cinturazione qualora la prima non dovesse dare gli esiti sperati. Rimane critico chi da 40 anni denuncia l'inquinamento della zona anche per la possibile apertura di un'altra discarica nelle vicinanze, nell'ex cava Murà. Marino Visentini, referente dell'Osservatorio Civico contro l'illegalità. Un progetto di bonifica che noi riteniamo insufficiente e nello stesso tempo nel comune vicino di Cividale Priuli c'è un'istruttoria per farne un'altra. Premariacco, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E alle 12.38 minuti diamo uno sguardo alla situazione del meteo. Su pianura e costa il cielo è sereno, sui monti è coperto. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste ci sono 11 gradi, a Gorizia 12 gradi e 5 decimi, a Udine e Pordenone 13 gradi, a Sappada 0 gradi, a Tarvisio 1 grado, a Forni di Sopra 5 gradi, a Piancavallo e Tolmezzo 6. Sul monte Zoncolan 0 gradi, sul monte Lussari 1 a Grado 10 gradi, a Lignano 11 gradi e 5 decimi. Le previsioni nelle prossime ore su pianura e costa: cielo poco nuvoloso variabile con bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa, specie a Trieste in serata. Sui monti nuvolosità variabile con maggiore copertura sulle Alpi Giulie. La fornitura completa di quaderni e penne destinata a tutti gli allievi della scuola numero 73 di Leopoli e l'obiettivo di strutturare percorsi di scambio culturale, programmi formativi per permettere ai ragazzi di Leopoli di riscoprire in Aquileia un punto di riferimento per l'archeologia internazionale, per toccare con mano le radici profonde dell'identità europea. E questo è il dono della Fondazione Aquileia, il cui presidente Roberto Corciulo ha affermato che l'obiettivo è quello di creare un ponte ideale tra le due città e di cui questa è la prima pietra. Doppia apertura oggi del Civiforum nelle sedi di Cividale del Friuli e di Trieste in occasione dell'Open Day, l'ente di formazione professionale dedica un pomeriggio a chi deve scegliere il proprio futuro dopo le scuole medie. Saranno illustrati nell'occasione i laboratori e i corsi offerti dall'istituto, come quelli per diventare cuoco, bartender, panettiere o elettricista, ma ce ne sono tanti altri. Inizio alle 14.30 nelle sedi di Cividale e di Trieste. E siamo allo sport. Oggi e domani a Tarvisio, sulla pista di Prampero, si disputano le gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Questa mattina era in programma la discesa libera, successo azzurro per la De Lago, la sua prima vittoria in carriera. Siamo collegati con Andrea Saule che ci racconta com'è andata questa mattinata. Una festa per quasi 3.000 persone, tutto esaurito, il mondo della neve del Friuli Venezia Giulia ovviamente entusiasta, perché a festeggiare è l'Italia. La discesa è appena finita dopo una pausa per un infortunio a un volontario che stava mettendo il colore. Il trionfo invece è quello di Nicole De Lago, prima vittoria in carriera, come dicevi. Gardenese partita con il pettorale numero 3, ha sfruttato al meglio le condizioni della neve di una di Prampero resa umida dalla nebbia, che per fortuna non ha inficiato sulla visibilità nonostante qualche timore di prima mattina. Nicole De Lago, 30 anni appena compiuti, era già salita sul podio in Coppa del Mondo, ma mai sul gradino più alto. Ha chiuso in 1.46.28, 20 centesimi più veloce della tedesca Bydel Winkelmann, ma gli occhi e il tifo erano tutti per Lindsey Vonn, la 41enne americana e discesista più forte di tutti i tempi, senza alcuna discussione, cui aveva vinto nel 2009 e nel 2011. A 15 anni di distanza è giunta terza, staccata di 26 centesimi, e ha avuto parole dolcissime per il tifo, dicendo che la pista non se la ricordava così bene dopo tanti anni, ma si ricordava bene sia il posto ma soprattutto il calore del pubblico. Tanti tifosi austriaci sugli spalti, qualche sloveno, principalmente ovviamente dall'Italia. Italia con 4 nelle prime 11, sesta Laura Pirovano, decima Nadia De Lago, sorella della vincitrice, undicesima una Sofia Goggia, che non ha mai trovato il feeling con la di Prampero, né con la pista né con la neve. Si concentra però sul Super G di domani, partenza prevista alle 11.30. Ora ci sarà la festa, la premiazione dopo un lungo DJ set del pomeriggio sarà alle 18, proprio qui nella zona di arrivo, prima appunto della gara del Super G di domani. Da Tarvisio è tutto. Grazie ad Andrea Saulo anche per questa notizia in tempo reale che ci hai dato, una bella notizia per i colori azzurri. E dietro l'aspetto agonistico però, come abbiamo sentito, c'è anche il lavoro dei tanti addetti che hanno garantito, stanno garantendo la sicurezza delle piste a favore delle atlete in gara. Una macchina organizzativa complessa, quella che è stata messa in piedi a Tarvisio per le due gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Molto ruota attorno a più di 200 volontari impegnati in pista, nella logistica e nel regolare il flusso degli spettatori, separandoli dalle zone riservate ad atlete, tecnici e staff organizzativo. Sul tracciato di gara operano soprattutto allenatori ed atleti appartenenti a 5 sci club della regione. Si tratta di persone che hanno dimestichezza nel lavorare con gli sci su piste impegnative che spesso possono presentare tratti ghiacciati. Il nostro lavoro è mantenere la pista pulita, scendiamo a coppie tra un atleta e l'altra, cercando di andare a lavorare su quelli che sono cumuli di neve, scalini, al fine di rendere la gara più equa e insomma tenere la pista il più uguale per tutte le atlete, da rendere più competitiva l'organizzazione dell'evento. Un'incredibile opportunità quella che ti viene data, lo sci mi piace da sempre, vivere una gara di questo tipo dietro le quinte è una bella esperienza e siamo qui a partecipare. Un'occasione anche per poter osservare da vicino le campionesse dello sci. Vedere Sofia Goggia che ti passa dietro, e Lindsey Vonn che fa foto, poi gli elicotteri, l'emozione c'è. C'è poi da garantire la sicurezza. Sulla pista di Prampero sono dislocati una cinquantina di operatori tra forze dell'ordine, soccorso alpino e SORES, pronti ad intervenire in caso di incidenti delle atlete o altre criticità, e possono contare su ben 2 elicotteri muniti di varicello posizionate nelle vicinanze della pista. Francesca Verginella, responsabile del soccorso sanitario. Un elicottero dedicato principalmente all'evacuazione dalla pista, essendo la pista in condizioni di Coppa del Mondo e discesa libera, non sicura con l'evacuazione da Contoboga, e quindi evacuazione per tutti gli atleti con varicello, e il secondo elicottero per le centralizzazioni in ospedale previa stabilizzazione in PMA di ogni atleta. Tarvisio, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo al calcio in Serie A. Arriva allo stadio Friuli la capolista Inter. Per l'Udinese un impegno severo, ma la squadra di mister Rugnaic non parte battuta. Inizio alle 15. Il coraggio per affrontare la capolista l'Udinese lo può trovare pensando alla gara d'andata, quando i friulani vinsero a San Siro grazie al gol di Attà, in campo oggi alle spalle di Davis, una delle quattro sconfitte subite dall'Inter, l'unica con una squadra non di prima fascia. Lo stadio Friuli, tutto esaurito, festeggia i suoi 10 anni dalla ristrutturazione, un impianto di proprietà per altri 89 anni, la visione dei Pozzo che in pochi in Italia sono riusciti ancora a realizzare. Quella dell'Inter sarebbe continuare a vincere in trasferta dopo i 5 successi consecutivi degli uomini di Chivu lontano da casa. In attacco il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi a Lautaro Martinez e Pio Esposito, dovendo rinunciare all'ispirazione di Çalhanoğlu oltre che a Dumfries sulla corsia laterale. L'assenza più pesante invece nella formazione di Rugnaic è quella di Zaniolo, operato al ginocchio e comunque squalificato. Di fronte il miglior attacco del campionato Inter con 43 gol e la seconda peggior difesa, Udinese che ha subito 32 reti e che dovrà giocare la partita perfetta che molti inseguono per fermare i nerazzurri chiamati fra 3 giorni alla sfida di Champions contro l'Arsenal. Udine, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. E scendendo in Serie C, la Triestina giocherà oggi in trasferta sul campo dell'Ospitaletto alle 17.30, il fischio d'inizio. E a Opicina il quarto torneo invernale di calcio a 5 Adriano Tuntar, riservato alle categorie pulcini under 11 ed esordienti under 13, una vetrina per il panorama del calcio giovanile regionale, cui si accompagnerà il nuovo format Show Your Skill, pensato per mettere in evidenza le capacità tecniche ma anche di creatività di gioco dei ragazzi. Si comincia al palazzetto Aldo Cova con le 6 formazioni dei pulcini, domani gli esordienti. Tutti gli incontri sono visibili anche su YouTube. E siamo al basket in A2, la Gesteco Cividale sarà impegnata oggi sul parquet di Cento alle 20.30, in A1 annullata la gara odierna tra Trapani e Trieste per la radiazione della squadra siciliana, domani l'APU Udine giocherà in casa contro Reggio Emilia con inizio alle 18. È aperto questa mattina a Pordenone la 36esima edizione della Mostra Mercato del disco usato da collezione in fiera, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e in particolare del vinile, in programma anche domani. In serata collegato alla manifestazione ci sarà anche un concerto del gruppo rock Banco del Mutuo Soccorso al Capitol con inizio alle 21.15. Noi abbiamo intervistato Attilio Perissinotti, l'organizzatore della Mostra del disco, e gli abbiamo chiesto, ora che la fiera è 2 volte maggiorenne, se si può considerare matura. Direi matura perché grazie ai suoi 36 anni e anche al fatto che è una delle più importanti in Europa, per cui maggior parte degli espositori arrivano da fuori Italia, è diventata in questi 36 anni l'unica fiera del vinile approvata dal Ministero della Cultura, per cui è fiera del vinile. Quanti espositori ci sono quest'anno? Espositori sono circa 120 espositori provenienti da tutta Italia e tutta Europa. E quanti dischi ci sono? Direi almeno più di 1 milione, sicuramente. Perché c'è questo amore per i dischi, per il vinile soprattutto? Sono tantissimi appassionati di musica, di tutti i generi musicali, perché qui si va dalla musica hip hop al rock, dal metal alla musica classica. E ci sono sempre meno negozi di dischi. Oramai la maggior parte degli appassionati devono passare attraverso le spedizioni online, attraverso i fan club dell'America, l'Australia e via dicendo. Quindi avere una location dove poter andare, guardare il vinile, toccarlo con mano, questo permette anche a noi di avere pubblico che fa anche 200 chilometri pur di essere qui dentro, e arrivano tutti con la lista, ma soprattutto si trova sempre anche qualcos'altro fuori della lista di cui non si conosceva. E anche un altro tipo di ascolto. Siamo tornati in un ascolto dove con la pazienza ci si siede, si ascolta, si gira il lato A, attraverso, poi si passa al lato B, e quindi fortunatamente c'è anche questo tipo di ascolto, ma poi c'è anche questa adesso di avere la copia autografata, ad esempio, perché quello quest'anno abbiamo organizzato anche domani un momento con le orme, con il banco o con i Nabat, per cui ci può essere i ragazzi che si portano la copia del vinile e farsela autografare da questi artisti. Si inaugura oggi a Pordenone una nuova rassegna dedicata al mondo dei videogiochi, visto come linguaggio culturale che ha sempre più spazio nella contemporaneità. Si chiama Game Zero e si terrà nella mediateca di Cinema Zero. Se gli appuntamenti in totale fino a giugno, tutti gratuiti, in cui autori, docenti, professionisti del settore saranno in dialogo per approfondire i vari aspetti del fenomeno. Dalle 15.30 la festa di apertura con brindisi e torneo di Mario Kart. E domani sulla terza rete Rai andrà in onda a diffusione nazionale la rubrica Est-Ovest curata dalla nostra redazione. Sentiamo il sommario. Un'inchiesta del collettivo giornalistico Recorder smaschera la corruzione che in Romania intreccia politica e magistratura. Ipomachi in Grecia, una comunità islamica di origini slave che rivendica la propria identità culturale. Il lavoro in Moldavia dei volontari dell'Associazione Amici dei Bambini a favore dell'infanzia più vulnerabile. A Danzica, nella Basilica di Santa Brigida, la chiesa di Solidarnosc, sta nascendo il più grande altare di ambra del mondo. Una mostra a Trieste presenta il lavoro di Živorad Zico Mišić, autore di una biografia a fumetti di Nikola Tesla. Tutto questo è Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze, appuntamento con Vita nei Campi. Questi gli argomenti che saranno trattati nella puntata. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani parla del nuovo libro che verrà presentato alla Fiesta del Purcitar a Fagagna. A seguire la morce nella storia del gusto, i residui bruno dorati del burro cotto, delizia del palato. La fertilizzazione azotata per ottenere una buona percentuale di proteina nel frumento da pane. E ancora, da Montezuma al commercio globale, il cacao, terza materia prima per importanza economica dopo petrolio e caffè. Dal lievito le mannoproteine con un ruolo chiave nella stabilità e nelle proprietà organolettiche del vino. Nel parco delle Prealpi Giulie il paesaggio invernale della palude di Vuarbis tra splendide strutture di ghiaccio. In conclusione andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. E a Gorizia andrà in scena Il medico dei pazzi, storico capolavoro di Edoardo Scarpetta, nella versione di Leo Muscato, che ambienta la vicenda nel periodo successivo alla legge Basaglia, una scelta significativa per la città di Gorizia e anche per la rivoluzione basagliana, che da questa rilettura e anche dalle domande che solleva guadagna nuova forza alle 20.45 al Teatro Verdi di Gorizia. Oggi a Gradisca di Sonzo sarà inaugurata una mostra particolare con opere inedite di due soli autori, Sergio Altieri e Giorgio Celiberti, opere inedite perché provenienti da una collezione privata nella Galleria d'Arte La Fortezza dalle 18. Il Magazzino delle Idee di Trieste presenta dal 14 febbraio al 7 giugno la mostra Japan, Corpi, Memorie e Visioni, prodotto e organizzato dall'ERPAC, Ente Regionale del Patrimonio Culturale della Regione. La rassegna intende raccogliere intorno a questi tre temi un nucleo di lavori di 16 artisti giapponesi contemporanei che attraverso l'utilizzo delle immagini offrono una panoramica di grande respiro sull'attuale scena fotografica e video nipponica, dal dialogo con i maestri alle ricerche delle nuove generazioni impegnate a rileggere la storia recente del Giappone, interrogandosi su questioni di genere, sul quotidiano e usando talvolta il corpo come mezzo politico. A Pordenone, al Museo Diocesano d'Arte Sacra, oggi la presentazione del volume Pietro Giacomo Nonis, Uomo di Fede e di Arte, antica edizione. L'evento e la chiusura della mostra dedicata al Monsignore fino al 18 gennaio, dalle 15 alle 19, appuntamento alle 17. E a Trieste verrà presentato il libro Non è giusta l'Italia delle disuguaglianze, con il curatore Giacomo Gabbuti, ricercatore della Normale di Pisa, della Sant'Anna di Pisa, che dialogherà con il professor Francesco Miele dell'Università di Trieste. L'appuntamento è alle 17 alla libreria UBIC del Tergesteo. A Trieste la presentazione del libro Non è giusta l'Italia delle disuguaglianze, con il curatore Giacomo Gabbuti, ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che dialogherà con il professor Francesco Miele, Università degli Studi di Trieste, alle 17 presso la libreria UBIC del Tergesteo. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, che è stato redatto e condotto da Giorgio Bears e da Dario Ronzoni, con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR Giornale radio del Friuli Venezia Giulia.